Ondivago, un programma ideato e condotto da Max Ponte, alla parte tecnica Alessandro Gianotti. Ondivago.com. In questo breve numero di Ondivago affrontiamo il tema dei guaritori. Un argomento difficile che non va a toccare la medicina alternativa, ma riguarda pratiche che assumono valenze magiche, esoteriche, religiose. Robaccia, potremmo pensare, viste le truffe spesso costruite attorno, ma il discorso pare molto più complesso. Laura Di Corcia, giornalista e scrittrice della Svizzera italiana, alcuni mesi fa ha pubblicato sul settimanale Oggi un articolo intitolato «Prego per te e campi 100 anni». Laura scopre che in alcuni ospedali svizzeri circolano liste di guaritori che vengono consigliati ai pazienti. Il primo pensiero è questo: nell'ordinata Svizzera si frequentano i guaritori più facilmente che in Italia. Ma se è così, questi guaritori riescono veramente a giovare a qualcuno? Ad Ondivago Laura Di Corcia, raggiunta a Milano dai nostri microfoni. Sì, negli ospedali della Svizzera francese, perché in Svizzera francese c'è una tradizione molto forte di guaritori e operatori del benessere che lavorano ricorrendo a pratiche alternative come la preghiera, il potere delle mani, eccetera. E ho scoperto casualmente che negli ospedali della Svizzera francese, a Losanna e anche a Ginevra, girano queste liste di guaritori all'interno dei reparti di emergenza. E a quanto pare vengono contattati questi guaritori soprattutto nei casi di ustioni gravi o molto gravi. E funziona così, mi hanno raccontato che funziona così. Si chiama il guaritore fa una preghiera a distanza, recita una formula particolare che rimane segreta, non mi hanno detto qual è questa formula, e a quanto pare le ustioni migliorano nettamente, molto più velocemente rispetto ai tempi richiesti da una terapia normale. Nel mio articolo, che è stato pubblicato su Oggi, io ho intervistato questa dottoressa, ed è un'oncologa, e lei ha avuto un'esperienza diretta di questo tipo di guarigione, nel senso che a lei è capitato di ustionarsi un braccio e dice che un'infermiera le ha proposto di chiamare uno di questi guaritori, e mi diceva che nel giro di 3 ore già sentiva molto meno male, e nel giro di un paio di giorni la pelle si stava già rimarginando. E quindi lei da quel momento, operando come oncologa e quindi facendo della radioterapia ai suoi pazienti, consiglia ai suoi pazienti di contattare questi guaritori per ridurre il rischio di scottature e altri effetti collaterali della terapia. Però quello che mi piaceva della Svizzera francese era proprio l'apertura di questi medici che concedono ai loro pazienti consigliano addirittura ai loro pazienti di ricorrere a dei metodi alternativi che solitamente vengono guardati malissimo, insomma, dagli esperti del settore. Quindi l'apertura della mente dello scienziato, diciamo, e addirittura vengono studiati questi fenomeni nelle università. Nell'Università di Ginevra ci sono diversi studiosi di sociologia che si occupano della storia, della medicina alternativa, e studiano questo campo che solitamente è guardato malissimo. Tu hai mai frequentato un guaritore? Cioè, no, allora, io ho un'esperienza personale, la mia esperienza personale è questa. Un paio d'anni fa c'era la madre di una mia amica che stava molto male, era in coma, e io personalmente ho contattato questa guaritrice, e devo dire che comunque è guarita, adesso sta bene, e i medici le davano veramente pochissime speranze. Quindi non so non è che so dirti sì, è stata la mia telefonata che ha modificato il corso degli eventi, no, non è stata la mia telefonata, però io questa telefonata l'ho fatta. Poi diciamo che non ho più fatto ricorso a questi numeri che ho, perché ce li ho, perché per una questione morale, cioè per delle cose piccole non mi sembra il caso di scomodare una persona. Fai l'influenza, non fai no, infatti, ma anche altre cose magari leggermente più gravi dell'influenza. Ad Ondivago abbiamo ospitato Laura Di Corcia, che ci ha parlato dei guaritori in Svizzera, un argomento difficile che va a scontrarsi con la medicina ufficiale. Ma un dato ci pare certo e su quello vogliamo riflettere. La medicina è un prodotto della cultura scientifica occidentale. L'essere umano è molto di più di quello che questa disciplina, limitata e purtroppo dogmatica, ci vuole far credere. Ondivago.com